известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Insomma, è successo tutto a Chicago nel pomeriggio di ieri alla università, scusate, Chicago, in Indiana, scusate la confusione, poi capirete perché parlavo di Chicago. È successo tutto in Indiana, si chiama South Bend, il luogo dove si trova la Notre Dame University, la più importante istituzione universitaria cattolica degli Stati Uniti d'America, è stata conferita una laurea ad honorem a Barack Obama, e il presidente degli Stati Uniti è andata a ritirarla. Tutto il mondo da diverse ore sta discutendo, si sta un po' anche accapigliando attorno alle strane reazioni che Barack Obama ha ricevuto al termine e durante il suo discorso, che in buona parte è stato dedicato al tema dell'aborto, anche perché naturalmente questa laurea ad honorem veniva consegnata da una università che appunto è una bandiera cattolica, e in quanto bandiera cattolica naturalmente è anche una bandiera della opposizione all'aborto, e su questo si è discusso, si è litigato, ora capiremo anche meglio come. Ma la cosa ci interessava raccontarvi all'inizio, che una delle persone arrestate a margine del discorso, della partecipazione di Obama all'evento, si chiama Norma Leah McCorvey ed è un personaggio assolutamente importante nell'America dell'ultimo mezzo secolo circa, perché risale al 1973 il celebre processo Roe contro Wade. Questi sono dei nomi di fantasia, perché in realtà sotto il nome di Roe si nascondeva proprio Norma Leah McCorvey, e il lungo procedimento legale fu quello che convinse alla fine la Corte Suprema americana a esprimersi contro le leggi che vietavano l'aborto o che dichiaravano l'aborto un delitto, rovesciando in questo modo quelli che invece erano i punti di vista e le posizioni di molte leggi Stato per Stato. La notizia interessante è che Norma McCorvey, la donna che a suo tempo ebbe un bambino, ma si appellò in nome al diritto, sostenendo di essere stata violentata, in nome al diritto di poter abortire, di una gravidanza non desiderata, Norma McCorvey è stata arrestata ieri perché protestava contro Barack Obama, perché nel frattempo da simbolo, da icona abortista, è diventata a sua volta una icona anti-abortista. Infatti nel 1994, quando pubblicò la sua autobiografia che si chiamava I Am Roe, io sono Roe, in quel periodo incontrò un attivista contro l'aborto che si chiama Flip Benham. Flip Benham in un certo senso la convertì, la convertì al cattolicesimo, la convinse a battezzarsi, e poco alla volta la portò dalle posizioni di emblema, no, del diritto delle donne ad abortire, a posizioni esattamente contrarie. Nel frattempo Norma è diventata anche un'icona gay, perché da molti anni condivide la sua vita con un'altra signora, e entrambe sono attiviste, e ieri erano a South Bend nell'Indiana a prendere posizione contro Barack Obama e contro il diritto ad abortire, che secondo molti proprio dalla presidenza di Obama riceverà forza, incremento e maggiori possibilità. Norma McCorvey alla fine è stata arrestata. We're fine, everybody. questo che sentite invece in sottofondo, su cui parliamo proprio per sonorizzare, per darvi un po', per restituirvi un po' l'ambiente in cui Obama ha parlato ieri alla Notre Dame University, è il ruggito del pubblico. Oggi si è scritto che ci sono stati dei fischi, e ce ne sono stati anche diversi, sono state anche alcune interruzioni alle parole di Barack Obama, ma bisogna dire che se date un'occhiata su internet, dove ci sono disponibili le versioni integrali del suo discorso, è impressionante il ruggito della folla in favore a Barack Obama, non dimenticate all'interno di una università cattolica. C'è dissenso, c'è un dissenso che peraltro Obama accoglie con una certa tranquillità, e lui stesso a un certo punto, quando vengono tacitati quelli che urlano, alcune persone che alzano la voce, che gridano contro di lui, è lui stesso a dire va bene, va tutto bene, nessun problema, noi non ci tiriamo indietro alle cose scomode, dobbiamo trovare un modo di vivere tutti insieme come una sola famiglia umana. Il fatto è che Barack Obama ieri ha giocato una posizione assai sofisticata, assai particolare, in un certo senso in una tana degli anti-abortisti, è andato a parlare di aborto parlando prima di tutto di convivenza dei punti di vista e di possibile complementarietà tra posizioni assolutamente diverse. Ha detto che aprire i cuori, aprire le menti è la cosa da fare prima di scontrarsi, scoprire la possibilità di un terreno di intesa su una materia come appunto l'aborto, in cui a un certo livello esistono posizioni dei due fronti inconciliabili, ma questo non vuol dire che tutto ciò deve sboccare in odio, in disprezzo, in rabbia. Secondo lui bisogna invece lavorare insieme per ridurre il numero delle donne che vogliono abortire, riducendo le gravidanze indesiderate, rendendo le adozioni più facili, fornendo assistenza e sostegno alle donne che vogliono portare a termine la loro gravidanza. In pratica Obama ha insistito sul fatto che bisogna smettere di ridurre quelli che hanno una visione diversa da te a una caricatura, ovvero bisogna mantenere il rispetto. Questo rispetto è una delle parole chiavi iniziali della campagna elettorale di Barack Obama, quando era un candidato di seconda fila del Partito Democratico. È una delle parole su cui ha costruito la sua formidabile ascesa. Ha detto che proprio questo rispetto è la chiave, è il modo che è sempre stata l'origine di un luogo come l'Università di Notre Dame, e di conseguenza per quello aveva accettato la laurea d'onorem, era grato al consiglio della università che gliel'aveva conferito, sia pur tra notevoli difficoltà, e era pronto ad accettare anche critiche e anche a discutere. Nel frattempo c'erano proteste sensibili, sono stati molti arresti prima dell'arrivo di Obama a Notre Dame. Nelle settimane precedenti addirittura 360.000 persone hanno scritto delle petizioni di protesta all'Ateneo di Notre Dame, chiedendo di non concedere né quella laurea ad honorem né cittadinanza di parola a un presidente abortista come McCain. Appunto, tra i tanti protestanti fuori dell'università c'era anche Norma McCarvey, però alla fine devo dire che l'accoglienza che ha circondato Obama e le sue parole è stata tutto sommato positiva, il che dimostra che, sia pur camminando sul filo, no, di quello che potrebbe essere anche scambiato per un opportunismo politico, ancora una volta il presidente ha saputo presentare una linea credibile, quella della conciliazione, quella del rispetto dell'avversario. Tutto ciò succedeva, vi ricordo, all'indomani dell'uscita di un sondaggio Gallup che ha fatto molto rumore, sul quale discuteremo anche nel corso di questa settimana, che mostra un paese assolutamente diviso sul tema dell'aborto. Per la prima volta dal 95 il 51% degli intervistati dalla Gallup si è detto pro vita, ovvero contro l'aborto, il 42% soltanto in favore della libertà di scelta. Quindi sembrerebbe che una maggioranza, o qualcosa che somiglia molto a una maggioranza degli americani, è contraria all'aborto nel momento in cui un presidente che la vede diversamente è stato chiamato a guidare il paese. Tenete presente che attorno alla questione dell'aborto e attorno anche alla questione dei diritti degli omosessuali ruota anche la corretta scelta e soprattutto i gruppi di pressione sulla amministrazione Obama per la scelta del nuovo giudice della Corte Suprema, e capirete che in questa settimana alla Casa Bianca dintorni si parlerà molto di affari interni e si parlerà molto di guerre culturali, come le chiamano lì, di grandi temi della società del presente che vengono discussi, esaminati ed eventualmente deviati. Il tutto mentre, come sapete, da un momento all'altro comincia l'incontro tra Barack Obama e Benjamin Netanyahu, che dovrebbe o potrebbe o forse vorrebbe cambiare indirizzo al cammino del procedimento di pace arabo-israeliano. Le cose vanno tutte insieme, l'uomo al centro di questi scenari è più o meno sempre lo stesso, ma da questi canali a tutto ciò in fondo ci siamo abituati. C'è un sondaggio rivolto ai soli cattolici, solo ai soli cattolici americani che sono stati interrogati dalla grande emittente informativa statunitense. La domanda era: doveva parlare Obama? Aveva diritto, insomma, era giusto che Obama parlasse nella nostra, no? Nostra, loro, università, a fronte poi di questa laurea ad honorem in diritto che gli è stata conferita. Il risultato è sonante: oltre il 60% dice di sì, solo il 27% dice che si esprime contrarietà per l'evento, insomma, e Obama è andato lì non a fare sostanziali passi indietro, sebbene a mettere in scena in modo più esplicito che mai proprio la sua filosofia di governo, cioè lo spazio per tutti comprende anche lo spazio per chi non la pensa come te, insieme al quale tu, che hai il bastone del comando, devi contemplare la possibilità di lavorare. Naturalmente ci può essere una dose di opportunismo in tutto ciò, ma questo è tutto da verificare, alla prova dei fatti, e anche su questo Barack Obama dovrà dare delle risultanze. Poi, caro Emiliano, in sottordine su CNN c'è c'era la notizia di questo signore che è stato beccato alla frontiera, anzi alla dogana, con 12 o 16 uccelli vivi attaccati ai pantanò, 12 o 16 songbirds, uccellini vivi che stava importando, no? Stava facendo entrare negli Stati Uniti dopo averli legati col cerotto sulle gambe. Ci sono le riprese, ti invito a dare un'occhiata, perché è uno spettacolo singolare, no? Però l'hanno beccato con 12 o 16 uccelli incatenati, non so come dire, legati alle zampe. Non deve essere stato un gran pomeriggio per lui. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Va bene, andiamo a questioni più andiamo serie. Un po' in giro per il mondo, però prima una comunicazione di servizio, perché il nostro Igor, mi viene in mente Frankenstein Junior, insomma, il nostro ascoltatore ci ha scritto pochi minuti fa chiedendoci dov'è finito Paolo. Deve solo avere un attimo di pazienza, perché a fine trasmissione abbiamo recuperato la viva voce di Paolo, che ha problemi col visto, dico solo questo e mi fermo. Ok, fra 20 minuti Paolo is in the house, come si dice. Live qui da noi. Allora, invece, caro Stefano, come lo vedi un mormone in Cina? Un mormone in Cina, attenta dove metti i piedi. Ci è arrivato, nominato dal nostro Barack Obama, che mette piede anche giustamente nelle questioni cinesi, nel senso che ha appena annunciato la nomina dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, che è il governatore repubblicano dello Utah, si chiama Yon Huntsman, ha 49 anni, parla tra l'altro un brillante cinese, almeno nella versione ufficiale, cioè il mandarino, perché sappiamo che in Cina ci sono almeno 30-40 dialetti, se non proprio lingue, quindi non è proprio facile districarsi da quelle parti. È stato diversi anni a Taiwan, dove ha svolto il ruolo di missionario mormone, quindi viene dallo stato per eccellenza dei mormoni nel mondo, direi, non solo negli Stati Uniti, cioè lo Utah. Tra l'altro ha adottato anche una bambina di origini cinesi, e tra l'altro, e qui Stefano non so se tu hai notizie in questo senso, da più parti leggo dalle agenzie che arrivano direttamente su questa notizia, è indicato come possibile sfidante di Obama nel 2012, e c'è anche una dichiarazione di David Plouffe che ha detto proprio di Huntsman è l'unico di quel partito, cioè repubblicani, che potrebbe essere un candidato potenziale. Allora, la regola riguardo alle dichiarazioni di David Plouffe è che dice sempre il contrario di quello che pensa. Quindi è bruciato. Lui indica sempre come stimabilissimi, anzi molto temibili avversari del suo datore di lavoro, che è Barack Obama, i nomi più improbabili, l'ultimo dei quali Rush Limbaugh, il conduttore radiofonico, che diceva: ah, siamo seriamente preoccupati. Sperando che lo candidi. È certo che Limbaugh, anzi, certo, hanno fatto veramente una mossa che ci ha sorpreso molto. Adesso dovremmo capire. Sotto, tutti che ridevano sotto il tavolo. Insomma. Quindi questo Yon Huntsman non farà molta strada dai repubblicani. Io resterei in Cina. Velocemente ve ne dico una che riguarda ancora la Casa Bianca, ma riguarda anche un uomo che credo compattamente, 98% anche in Italia, amiamo tutti, alias Paul McCartney, che ha contattato a sua volta Barack Obama. È interessante perché Paul, il Beatle, è uno che di solito se ne sta abbastanza zitto per gli affari suoi, però da tempo ha messo in piedi una organizzazione che si chiama One Voice, e a questo punto ha chiesto a Barack Obama di prendere posizione in favore di One Voice, che è un'organizzazione pacifista che guarda in particolare al Medio Oriente, con 650.000 iscritti, che non sono pochi. Lui ha aderito al gruppo all'inizio dell'anno, è entrato a far parte del Consiglio dei Consulenti Internazionali, ci sono molte star, Danny DeVito, Cassius Clay addirittura. Ha scritto McCartney: spero che Obama prenda in considerazione questa organizzazione e comprenda che One Voice può essere parte di una soluzione pacifica. Questo è il solito star power, no? Quando i famosi si mettono in mezzo a risolvere cose che non risolveranno mai. Noi ve ne diamo notizia, ma speriamo naturalmente che i piani americani siano un po' più affilati di così. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed the way you pull me out of time. You hung me on the line. Maybe I'm amazed the way I really need you. Maybe I'm a lonely man who's in the middle. Dunque, se si guarda un sito che quotidianamente riporta gli impegni del presidente Obama, si capisce che la giornata di oggi è, come dire, devoluta praticamente a un solo scopo. A parte un briefing in apertura e quattro chiacchiere con il suo ufficio stampa, alla fine tutto il resto della giornata, a partire praticamente da adesso, che dovrebbe essere esattamente l'ora in cui l'incontro tra Obama e Netanyahu ha inizio, poi i due leader su tavoli diversi, compreso quello da pranzo, insomma, ma continueranno il loro incontro, il loro confronto, che si spera dovrebbe portare risultati in vista di una pacificazione o comunque di un movimento, come dire, far muovere la macchina su questa famosa strada di una soluzione del problema arabo-palestinese. Abbiamo in diretta Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, inviato in Medio Oriente, autore tra l'altro di un libro che ha presentato anche qui, mi pare verso lo scorso autunno, intitolato Il sogno incompiuto, uomini e storie di Israele, edito da Tropea. E con Ugo vogliamo un po' discutere i temi, no, che su questo tavolino i due grandi capi, Netanyahu e Obama, avranno, per capire poi quali sono le possibili prospettive. Prima di tutto, buon pomeriggio, Ugo. Buongiorno. Allora, io mi affido a una roadmap, tanto per non sbagliarmi, si fa così, mi hanno spiegato, una roadmap degli argomenti che è stata pubblicata oggi da Time Magazine, che ha individuato, come dire, cinque scalini da salire insieme, mano nella mano, Barack Obama e Benjamin Netanyahu, se vogliono arrivare da qualche parte. Te li voglio sottoporre, questi cinque scalini, per capire qual è il tuo punto di vista sulla possibile empatia, no, fra i due leader, se si possono, insomma, se possono trovare un punto d'incontro, o se ciascuno resterà invece dalla sua parte del tavolo e non se ne fa nulla. Ugo, allora comincerei a sottoporti il tema numero uno, ovvero la famosa soluzione dei due stati, su cui pare che Obama sia molto intransigente, molto deciso, ma Netanyahu assai meno, anzi si considera una soluzione di questo genere assai pericolosa per Israele. Ritieni che la soluzione dei due stati oggi, nell'incontro Obama-Netanyahu, farà qualche passo avanti e comunque è un cardine dell'incontro? Qual è la prossima domanda? No, intendo dire, cioè, già questo da solo serve non per passare tutta la giornata, ma per passare i prossimi due anni dei rapporti fra Stati Uniti e Israele, e forse anche dell'intero Medio Oriente. È una domanda fondamentale, una domanda che ha a che vedere con l'ideologia che sta a fondo a questo governo, al Likud, che ne è parte fondamentale, a Bibi Netanyahu, che è figlio di un grande storico israeliano proprio dell'ebraismo, è fratello di uno dei più grandi eroi di Israele, cioè Yoni Netanyahu, che fu ucciso, era il comandante dell'operazione Entebbe quando gli israeliani andarono Entebbe in Uganda a liberare un aereo della France dirottato pieno di israeliani e di ebrei, e fu l'unico soldato ucciso in quell'operazione. Ecco, Bibi Netanyahu fa parte di tutta questa storia, e quindi gli insediamenti per lui fanno parte della storia di Israele. Di grande Israele non si può più parlare, però sul campo, sul terreno, Israele, la grande Israele esiste attraverso proprio gli insediamenti. Certo, ma di fronte alla pressione che riceverà da parte della rappresentanza americana di aprire il discorso sulla soluzione dei due stati, quale si può supporre possa essere la posizione Netanyahu? No, beh, certamente la cosa fondamentale è proprio quella che dicevi, cioè sono gli insediamenti. L'amministrazione Obama è molto precisa su questo. L'altro giorno ero in Giordania, al World Economic Forum, ho fatto due chiacchiere con John Kerry, l'ex candidato democratico e presidente della commissione del Senato, commissione esteri del Senato. Lui, la prima cosa che ha detto è stata proprio questa: sul campo deve cambiare una cosa, e quello sono gli insediamenti, cominciamo a congelare gli insediamenti. Quindi è una priorità, gli americani hanno perfettamente capito questo, ma sarà molto difficile uscire. Giusto in questi giorni, giusto ieri, il governo israeliano ha dato il via libera all'allargamento di un insediamento nella Valle del Giordano, quindi molto distante dalla cosiddetta linea verde, e continuano, e tra l'altro è l'insediamento nato proprio per dare posto a quei coloni che vennero nel 2005 vennero mandati via da Gaza, i quali anziché essere integrati in Israele, i coloni che tornano a casa anziché essere integrati in Israele vengono invece mandati nella West Bank. Questo rende molto difficile un dialogo rispetto al processo di pace che ha in mente l'amministrazione Obama. Certo, quello di oggi è solamente il primo contatto, certo, se litigheranno certo. Probabilmente non lo verremo a sapere, temo che sia molto probabile che litigheranno, anche perché i caratteri sono profondamente diversi. E last but not least, come si dice in America, non da ultimo, Bibi Netanyahu è profondamente odiato da Hillary Clinton, che l'ha conosciuto molto bene 10 anni fa, quando Bibi Netanyahu era già primo ministro e quando Hillary Clinton era la first lady di suo marito. Tu vedi anche un fattore umano in questo incontro, o come spesso esiste insomma negli incontri tra leader, ovvero un fattore umano, in questo caso di possibile incompatibilità tra i personaggi in gioco? Beh, assolutamente sì, in un conflitto come questo il fattore umano è fondamentale. Arafat era un uomo totalmente privo di umanità, anche per questo poi non è riuscito, come dire, a rompere le scorze dure degli israeliani. Certamente Yitzhak Rabin, che è un eroe di questa storia, capì che era necessario fare la pace con gli israeliani dopo una lunga traiettoria come militare, come conquistatore di territori. In qualche modo perfino Ariel Sharon aveva un grado di umanità che gli ha permesso di capire qual era l'interesse di Israele. Certo, e così certo. Pure Abu Mazen, che è un vecchio comunista che viene stato educato alla scuola, all'università Lumumba di Mosca dei tempi dell'Unione Sovietica, ed è un uomo assolutamente di pace. Ecco, Bibi Netanyahu manca, fino ad ora ha sempre dimostrato di mancare di questo tocco. Certamente è una persona anche molto brillante, l'ho incontrato diverse volte, è un affabulatore, è uno che sa affascinare quando parla, però è un uomo che a partire dagli israeliani nessuno crede. Il fattore Iran viene proposto naturalmente da tutti gli articoli attorno all'incontro Obama-Netanyahu come una priorità assoluta, ma lo sarà veramente, lo sarà per entrambi, e secondo quali dinamiche? Beh, è un fattore fondamentale per entrambi, infatti sia per gli Stati Uniti che per Israele, con una però differenza fondamentale. Quindi si troveranno d'accordo su questo almeno? Si troveranno d'accordo nel definire che lì bisogna fare qualcosa per impedire che l'Iran abbia un'arma atomica. Però c'è una differenza sostanziale, Bibi Netanyahu lo considera un fine, cioè Bibi Netanyahu considera che il primo obiettivo è eliminare questo pericolo soprattutto con l'arma militare. Invece l'amministrazione Obama per primo ritiene che il modo migliore per affrontare diplomaticamente la questione, cioè ingaggiare in un dialogo l'Iran, sia dimostrare all'Iran la buona volontà dell'America capace di risolvere la questione palestinese. Cioè, quindi Obama dice: risolviamo il problema dell'Iran dimostrando al mondo arabo, al mondo islamico tutto, che può nascere lo Stato palestinese, e se nasce lo Stato palestinese questo è un bene per la sicurezza di tutti a partire da Israele. Bibi Netanyahu parte da un presupposto completamente diverso. Certo. Senti, per concludere, è appena uscita un'agenzia, forse l'hai vista, che racconta che naturalmente nel giorno dell'incontro Obama-Netanyahu i media israeliani riferiscono con grande rilievo di un progetto di espansione, proprio in relazione a quello di cui parlavi poco fa, di un nuovo insediamento ebraico. La colonia in questione sarebbe quella di Maschiot, nella valle del Giordano, dove un gruppo di imprenditori edili ha compiuto una visita di studio del sito. Secondo il portavoce di Peace Now, che si chiama Yariv Oppenheimer, i coloni hanno volutamente fatto coincidere la pubblicazione della gara d'appalto a Maschiot con l'incontro Netanyahu-Obama. Non è un buon segnale? No, per dirla tutta è anche l'insediamento accanto è quello dove vive Lieberman, il nuovo ministro degli esteri, e come noto certo non è un uomo di pace. E i giornali israeliani, per concludere, danno anche molto spazio a un altro piccolo fatto ma significativo a proposito di quello che c'eravamo prima. La moglie di Netanyahu, che è partita con lui per l'America, non incontra Michelle Obama, certo. Mentre di solito tutte le first lady, a soprattutto quelle israeliane, avevano le porte aperte anche nella parte, come dire, più rappresentativa e femminile delle loro visite. Insomma, come si dice nel gergo sportivo, una partenza in salita, mi sembra di capire, diciamo, per questo vertice. Diciamo che butta male. Va bene, vedremo come vanno le cose. Grazie a Ugo Tramballi. Grazie a voi. Punctured bicycle. Appena apparse le immagini di Benjamin Netanyahu, 10:26, 20 minuti fa, è arrivato alla Casa Bianca, una lunga teoria di auto con servizi di sicurezza e i suoi assistenti che lo accompagneranno allo studio Ovale alla visita a Barack Obama. Ha detto: sarà la missione della mia vita, parole enfatiche ha pronunciato Netanyahu in vista dell'incontro con Barack Obama, mentre appunto viene confermato quanto diceva Tramballi poco fa, ovvero Michelle Obama non dovrebbe incontrare Sara Netanyahu, la moglie del primo ministro israeliano. E c'è Maretta attorno alla cosa. Arez dice: cosa succederà se la signora Netanyahu dovesse subire un tale affronto? Quindi è Michel che non... È un duro colpo diplomatico. È Michel che non riceve. E forse c'ha ragione, fa ragione Ugo. Brutaria attorno a questo incontro. Va bene, vedremo, seguiremo e naturalmente ci torneremo, approfondiremo domani, perché adesso abbiamo obblighi di ben altra statura. Come promesso. Come dire, naturalmente ironizziamo, se no i nostri ascoltatori si arrabbiano perché c'è chi ci ha scritto che non abbiamo dedicato la giusta attenzione agli uccelli legati alla gamba del signore che l'ha portati dentro gli Stati Uniti d'America. L'hanno arrestato, guardate, se non altro la vendetta è stata consumata. Gli uccelli stanno bene. Stanno bene, volano liberi, chissà. Sì, sì, stanno bene. Sta abbastanza bene invece il nostro Paolo, il nostro Marco Polo del XXI secolo, che ormai ciclicamente, una volta al mese più o meno, chiamiamo per scoprire come sta nella sua Shanghai, dove si è trasferito ormai da un anno e mezzo. Da quanto tempo? Ho fatto il conto, era dalla fine di marzo. No, ma da quanto lo seguiamo? Un anno e mezzo. Buono, siamo partiti credo gennaio dell'anno scorso, del 2008, che è più o meno il momento in cui lui è andato per la prima volta stabilmente a Shanghai per lasciando amore, lavoro, lasciando tutto, no? La famiglia, litigando, poi questo litigio è ritornato nei ranghi, adesso insomma nel bene e nel male continua la sua love story a Shanghai, cerca un lavoro in pianta stabile, qualcosa si sta muovendo, ma negli ultimi giorni è tornato all'attualità invece un tema che sembrava un po' sopito, se non altro perché sembrava risolto, cioè quello del visto, perché in realtà 3 giorni fa gli è scaduto per l'ennesima volta il visto e quindi ha dovuto fare le solite lunghissime pratiche per rinnovarlo, e appunto in questa prima tranche, perché poi Paolo lo rimanderemo più volte in questa settimana, certo, ci racconta proprio le piccole disavventure burocratiche con il visto di permanenza in Cina. Allora, grande richiesta degli aficionados di Jefferson e soprattutto di Paolo e della sua Xiao Shuang, eccolo qua, Paolo e l'avventura del visto. Come consuetudine, 10 giorni prima mi sono mosso per sapere un po' com'era la situazione, ma diciamo che non immaginavo ci fossero problemi, se non che alle mie 3-4 email mandate alle varie agenzie mi è stato risposto da tutte più o meno che la situazione era un po' cambiata e che i visti potevano essere prolungati, in particolare il visto business, fino al 15 settembre, quindi non 6 mesi ma nel mio caso 4 mesi. Non capivo perché, comunque questa era la solfa. Dopo aver tribolato un po', dopo aver alla sesta agenzia a cui mi sono rivolto, ho provato a sentire, questa qui, a differenza delle altre, e non so il perché, insomma, non so perché 4 o 5 no e sì, sì, fatto sta che comunque alla sesta agenzia sono riuscito finalmente a trovare chi mi ha detto che si poteva fare la cosa. Siamo in ritardo, vediamo in tutta fretta come finisce l'avventura del visto del nostro Paolo. Chiedendomi quando è la mia ultima entrata nel paese, quindi nel mio caso il 19 agosto scorso, il visto mi è possibile rinnovarlo fino al 18 agosto di quest'anno, quindi esattamente un anno. Quindi Paolo, in questo momento tu hai un visto che durerà 3 mesi. Sì, lo sto aspettando perché i tempi sono 10 giorni, quindi io adesso in mano non ho ancora nessun visto, però il 23 di questo mese andrò a ritirarlo pagando non poco, perché se per l'ultimo visto fatto la volta scorsa avevo pagato per 6 mesi 320 euro, adesso per 3 mesi ho pagato 290 euro, quindi quasi lo stesso prezzo per la metà dei mesi. E quindi perché probabilmente ci hanno marciato il 15 e anche stamattina mi ha chiamato come ormai consuetudine, che preferirei non ci fosse, la polizia, per chiedermi lumi in merito al visto, perché loro sono con precisione svizzera. Ormai l'ultimo giorno del visto mi chiamano, mi telefonano per sapere, però non questa volta sono andati anche oltre, perché questa mattina dalla reception mi hanno telefonato qui sopra, qui in appartamento, per dirmi che c'era la polizia al piano terra che chiedeva di me, insomma, una cosa del genere. Beh, come al solito l'affare si ingrossa, no, assicuriamo che la polizia piano terra. Paolo non è stato arrestato, la polizia non ha fatto irruzione a casa sua, ha questo visto per 3 mesi, però siamo sempre lì sul filo. Il povero Paolo non trova un momento di serenità da questo punto di vista. Va bene, domani, seconda puntata, ne saprete di più. Jefferson 2, l'arte della svolta, io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano, la mail jefferson2@radio24.it, Facebook, che non avete sentito perché le mail nostre continuano a non arrivare, ma adesso è arrivata, quindi domani discuteremo il tema insieme a voi con Express Yourself, Jefferson 2, Radio 24 o redazione Jefferson 2 per contattarci direttamente, replica a mezzanotte, podcast sul sito della radio, diretta appunto dopo le 4 domani qui su Radio 24, ci sentiamo.